Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Las Vegas, la patria del gioco d'azzardo, di infinite notti di luci sempre accese e riflettori puntati su spettacoli mirabolanti, eccessivi, spesso unici al mondo. Nel buio del deserto del Nevada, all'improvviso, si accendono i riflettori su musical, concerti, mega show, eventi sportivi e naturalmente lo spettacolo più fantasmagorico e famoso di tutti, il Cirque du Soleil, che qui mette in scena Mister, Zumanity, Ka, Love, Viva Elvis e... Oh, sei delle sue migliori produzioni rappresentate in pianta stabile. Tuttavia, non occorre arrivare fin laggiù per assistere ad alcuni degli spettacoli moderni più entusiasmanti, colorati e fantasiosi mai visti. Il Circo del Sole è in tour permanente nel mondo con le sue produzioni. Quidam, Saltimbanco, Corteo, Cus. E ormai milioni di persone hanno avuto il piacere e la fortuna di assistere almeno una volta a quello che più volte è stato definito circo contemporaneo. Definizione del tutto inadeguata a rendere conto di una realtà composta da più di 3.000 tra acrobati, equilibristi, saltimbanchi, clown, contorsionisti, mimi e altri ancora. Tutti i professionisti dell'arte dell'incredibile, della sospensione della razionalità tra realtà e il sogno. Oggi a Destini Incrociati parliamo di questo nuovo tipo di circo e degli artisti che ne hanno cambiato il volto, trasformandolo in uno spettacolo moderno e unico al mondo per spettacolarità, fantasia, dispendio di energie, uomini e risorse economiche. Uno show itinerante e incredibile che avrebbe strabiliato lo stesso Barnum e che lascia col fiato sospeso e i sensi attoniti chiunque abbia la fortuna di assistervi. Per capire come tutto questo sia avvenuto, facciamo però un passo indietro nel tempo e trasferiamoci nella fredda Quebec City, nel Canada francofono degli anni 60. A Saint-Bruno, Quebec, nella seconda metà degli anni 60, un vivace ragazzino di nome Guy ha da poco finito di cantare nel coro della chiesa del suo quartiere. Ha fretta. Lo attendono una lezione di arti marziali e subito dopo un'esibizione di ballo popolare canadese. Non sta mai fermo. Ama tutto ciò che è esibizione, performance, movimento. A quei tempi a casa nostra ogni occasione era buona per una festa, un party, e c'era sempre molta musica, si ballava, si intrattenevano gli ospiti. Guy cresce in una classica famiglia della classe media canadese. Il padre è dirigente d'azienda e la madre insegnante di piano. Non gli manca nulla, ma dentro di lui brucia il fuoco della conoscenza, il desiderio incessante di vedere il mondo. Sono sempre stato un sognatore, sempre affascinato e curioso di ogni cultura, di ogni popolo del mondo. A soli 18 anni, quando lascia la famiglia per la prima volta, e ha le idee molto chiare. Girerà il mondo come artista di strada. Per lui il miglior modo per stare davvero a contatto con la vita e la gente dei luoghi che visiterà. Londra è la sua prima tappa. Appena arrivato non ha molto denaro. Così davvero avventuriero, passa le sue prime 3 notti dormendo su una panchina in Hyde Park. Con sé ha solo il suo zaino, 2 fisarmoniche, un'armonica a bocca e un'arpa. Non ha nessun timore perché sa esattamente cosa vuole. Lo saprà sempre, nel corso della sua vita, che inizierà realmente proprio lungo le strade della capitale inglese. Il suo nome completo è Guy La Liberté. Guy La Liberté. All'inizio pensavo sarebbe stata solo un'avventura e avevo intenzione di tornare a scuola e avere una vita normale. Le cose invece sono andate diversamente, sono rimasto e tutto è iniziato così. La vita nella Londra di fine anni 70 è entusiasmante, colorata, feconda di avvenimenti culturali ed è grande il desiderio di libertà, di trasgressione, di lotte politiche. Esplodono la creatività e la voglia di progresso a tutti i costi, i colori dei tessuti fioriti e i jeans a campana, il glam rock, i movimenti punk. Il sesso e anche le droghe diventano parte integrante dello stile di vita tra i più giovani. Guy La Liberté viene dalla remota provincia canadese e qui sembra trovare la sua dimensione. Gira per le strade, guarda, impara e assorbe. Ma Londra non è che un punto di partenza per le altre piazze d'Europa dove la performance di strada è un culto. Impara molto. Si specializza come mangiatore di fuoco, giocoliere, trampoliere e mago. Stringe amicizie, impara i rudimenti di nuove lingue e poco alla volta si fa un'idea chiara di ciò che davvero piace alla gente quando vuole restare stupita. Nel 1979, come sempre repentino nelle sue decisioni, Guy decide di rientrare in patria per provare a mettere a frutto le sue esperienze in maniera più organizzata e professionale. Un primo decisivo incontro della sua vita lo attende a Baie-Saint-Paul, cittadina del Quebec, immersa in una valle alla foce del fiume San Lorenzo. È qui che Guy incontra Gilles Stécroix, un geniale hippie nomade, fondatore di varie comunità di figli dei fiori e soprattutto, come Guy, profondamente innamorato dell'arte di strada. Condividere le idee, lavorare insieme, fare sì che le cose accadessero. Quello era il nostro scopo, l'idea di uno spettacolo reale, tra la gente. Gilles ha da poco fondato una banda di artisti di strada, gli Echassiers de Baie-Saint-Paul, altissimi e agili trampolieri, giocolieri strabilianti, musicisti e maghi che intrattengono gli abitanti e i turisti lungo le vie acciottolate e le spiagge della città. La Liberté vuole vederli, conoscerli e subito si innamora del loro modo di intrattenere la gente, così colorato, divertente, fantasioso. Anche Gilles gli piace da subito. È un giramondo come lui e come lui sa cosa vorrebbe dare alla gente. Lo stesso senso di stupore che cercano entrambi ogni volta che si fermano ad ammirare una performance. Guy e Gilles hanno poco più di 20 anni, portano i capelli molto lunghi, vivono ancora alla giornata secondo i principi della filosofia hippie, della vita degli artisti di strada, finché non sentono che quella dimensione comincia ad andare stretta. La cronica mancanza di denaro impedisce loro di realizzare progetti più importanti, di sognare in grande. Devono fare qualcosa. L'idea che per prima si materializza è quella di organizzare una sorta di festival di artisti di strada proprio a Baie-Saint-Paul. Lo chiamano la Fête Foraine. È un bello spettacolo che piace molto ai turisti, ma molto meno ai tranquilli abitanti della baia, che ne impediscono una seconda edizione. Ma i due canadesi non si scoraggiano. Sentono che quella di raggruppare il maggior numero di performers in un unico spettacolo è la strada giusta. E nel 1984 decidono di trasferire armi e bagagli a Montreal, la città capitale e più popolosa del Quebec. Nello stesso periodo, una loro connazionale segue un percorso parallelo, muovendo i primi passi nel mondo della musica che la porteranno a diventare la cantante canadese più famosa al mondo. Il suo nome è Céline Dion. 1984. Montreal è una grande città che presenta nuove e diverse opportunità per Guy Laliberté e Gilles Stécroix, due amici girovaghi canadesi dalle grandi ambizioni nell'anno della celebrazione per i 450 anni dalla scoperta del Quebec. Guy, capelli lunghi e sciolti fino in vita, si presenta al governo del Quebec per chiedere un finanziamento. Ha in mente uno strabiliante spettacolo di strada, culminante in un grande tendone da circo per celebrare al meglio la ricorrenza. Non ci saranno animali a esibirsi, ma solo il meglio dell'acrobazia, dell'equilibrismo, insomma, dello spettacolo di strada di tutto il Canada. Il suo entusiasmo è contagioso e limpido come il nome che assieme al suo socio Stécroix ha dato allo spettacolo: Le Grand Tour du Cirque du Soleil. Guy riesce nell'intento, ottiene il finanziamento. Ora è il momento di lavorare sul serio, di organizzarsi, di diventare impresari. Lo spettacolo, nonostante alcune disavventure come la caduta del tendone sulla testa degli artisti durante le prove, è un vero successo. E il successo richiama l'attenzione, specialmente degli sponsor. Arrivano così i soldi per un secondo tour. Ai due ragazzi non sembra vero. Le evoluzioni però sono necessarie e si parte dal nome, che diventa semplicemente Cirque du Soleil. Il circo che diviene arte, che diviene performance, è ancora gesto atletico, coreografia, per poi tornare di nuovo circo, divertissement, intrattenimento e gioia. Questo è il sogno che Guy sta tentando di realizzare. Allo stesso modo c'è uno sport, molto apprezzato nel suo paese, che dal giorno della sua invenzione prova a fare la stessa cosa. Contaminare più generi fondendoli in un unico spettacolo che tutti li comprenda. È il nuoto sincronizzato, ideato nei primi anni del XX secolo col nome di balletto acquatico. Mentre le Cirque du Soleil muove i suoi primi passi verso la fama nella stessa città che per prima ci ha creduto, Montreal, una ragazza di 16 anni si sta preparando giorno dopo giorno, una bracciata e un'immersione dopo l'altra, a realizzare il suo sogno. Diventare una campionessa di nuoto sincronizzato. Si chiama Sylvie Fréchette. Sylvie Fréchette. Ciao a tutte ragazze, oggi vi farò vedere come si fanno i conci per il nuoto sincronizzato, i pupi, lo chignon, insomma, come lo volete chiamare. Concio, chignon, come li chiama Sylvie, ma anche trucco, costume di scena, coreografia. Termini desueti nello sport, ma ben noti per quello che dal 1984 a Los Angeles è divenuta una disciplina olimpica a tutti gli effetti. Il nuoto sincronizzato è infatti un ibrido di nuoto, ginnastica e danza attraverso il quale gli atleti eseguono esercizi coreografici in acqua a tempo di musica. Guy Laliberté e Sylvie Fréchette non sanno ancora nulla l'uno dell'altra, ma molte cose già li uniscono. Le loro rispettive passioni hanno parecchi punti di contatto, ed è proprio a Los Angeles, la città dei giochi olimpici dell'84, che vedranno l'esordio del nuoto sincronizzato quale disciplina olimpica, che il gruppo di Guy Laliberté viene invitato al Los Angeles Arts Festival. Un'occasione imperdibile, ma i soldi nelle casse della compagnia stanno finendo. Il finanziamento governativo è esaurito. Guy però decide che a Los Angeles si deve andare comunque. E anche se ci sono soldi solo per l'andata, pensa, se le cose andranno male, si fermeranno là. In fondo la California non è poi un posto così male dove ricominciare. Scommettemmo tutto su quella trasferta. Se avessimo fallito, non ci sarebbe stato abbastanza denaro per tornare a casa. Ma non sarà così. Lo spettacolo è un grande successo, di pubblico e di introiti, grazie alle repliche richieste a gran voce nei mesi successivi. Il Cirque attira l'attenzione dei media, ma anche dei grandi nomi dello spettacolo. Si fa viva la Columbia Pictures. Vuole entrare in pieno nel business, comprare i diritti per girare un film sull'esperienza di Guy e soci. Ma davvero gli artisti di strada, liberi e pieni di risorse, loro rifiutano l'offerta. Andranno avanti con le loro forze senza padroni in giacca e cravatta. Sono degli impresari, è vero, ma dentro di loro batte ancora un cuore da figli dei fiori. L'esperienza californiana è servita comunque, se non altro hanno i soldi per tornare a casa. E nel 1988 Guy capisce che la sua creatura è diventata qualcosa di diverso dalla semplice definizione di circo contemporaneo. È un work in progress, un evento in permanente evoluzione che deve nutrirsi di continuo rinnovamento. Non ci si può fermare. Decide così di reclutare centinaia di artisti da tutto il mondo. Dopo migliaia di ore di estenuanti provini, vede, studia, assorbe spettacoli. Anche lo sport gli interessa. È proprio a quel mondo che si rivolgerà, anche se ancora non sa che offrirgli l'occasione per uno dei suoi più riusciti spettacoli sarà proprio una sua connazionale, che proprio in quell'anno di grazia 1988 si sta preparando alla sua prima partecipazione ai Giochi Olimpici con la squadra nazionale di nuoto sincronizzato. Guy Laliberté e Sylvie Fréchette, così vicini ma ancora così lontani, non tarderanno molto a incrociare le loro strade. A destini incrociati, Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil, è uno degli uomini più ricchi del mondo, e Sylvie Fréchette, sincronetta canadese sua connazionale, stanno per incrociare il loro destino. Alla fine degli anni Ottanta, la carriera di Guy è ormai avviata alla definitiva consacrazione, mentre Sylvie è agli inizi di una storia sportiva e di vita rocambolesca. Io ho iniziato a nuotare presto e a 7-8 anni ero già innamorata dell'acqua. Per me è diventato subito un ambiente affascinante, familiare, e poi è diventato tutta la mia vita. Sylvie Fréchette nasce a Montreal, in Canada, il 27 giugno 1967. Agli inizi degli anni Ottanta è una ragazzina timida e piena di vita, di quelle che sacca in spalla ogni sera si reca in piscina per il quotidiano e massacrante allenamento. Non va propriamente per nuotare, bensì per allenare una forma di spettacolo sportivo che nel 1984 assurgerà a disciplina olimpica, il nuoto sincronizzato. Questa è una disciplina sportiva che esige una padronanza assoluta del proprio corpo e dei movimenti, dei riflessi, delle capacità d'orientamento e di uno spiccato senso del ritmo e della musica. Richiede una tecnica accurata, allenamenti intensi. Bisogna sapere nuotare molto bene, essere agili, resistenti, forti e infine possedere spiccate capacità ginniche. Tutte queste doti, ancora in fase di affinamento, non mancano a Sylvie, la quale, ancora ignara del suo futuro, dedica lunghe ore al suo sogno più grande. Fare parte della squadra nazionale del Canada, diventare una campionessa e un giorno partecipare alle Olimpiadi. Barcellona 1992. A fine luglio, la capitale catalana è invasa da poco meno di 10.000 atleti in rappresentanza di 170 nazioni. Tra queste, quelle appartenenti all'area dell'ex Unione Sovietica si presentano sotto la bandiera del CSI, la Comunità degli Stati Indipendenti. Ma la politica è l'ultimo dei pensieri di Sylvie Fréchette. Da anni sta preparando la gara della vita In Canada è già un idolo e in Spagna arriverà compiuti da poco i 25 anni, con il titolo di campionessa del mondo conquistato l'anno prima a Perth. È una donna ormai che convive da qualche tempo con il fidanzato manager Sylvain Lake. Le valigie sono già pronte nell'appartamento di Montreal dove Sylvie e Sylvain convivono. È il 18 luglio 1992. Manca solo una settimana alla cerimonia di apertura e lei sta rientrando a casa dopo una sessione di allenamento e un servizio fotografico. Si accorge che qualcosa non va. Un odore di scarico d'auto sta impregnando le scale che portano all'appartamento. Sylvie sente la macchina del fidanzato accesa in garage. Si precipita lì, sconvolta da un presentimento che diviene subito certezza. Sylvain si è ucciso. La lascia sola, senza nemmeno un biglietto di spiegazione, alle soglie del momento più importante della sua vita e nello sconforto di non avere potuto fare nulla per aiutarlo. Il mio corpo era a Barcellona, ma la mia mente era altrove. Mi sembrava di vivere la vita di qualcun altro. Mi sentivo e mi muovevo come un robot. Mi ritornano alla mente solo alcuni flash, ma non ricordo nulla, ad esempio, del villaggio olimpico. L'unica cosa che rammento della cerimonia di apertura è che fu molto lunga e che io sedevo attonita da qualche parte nello stadio. Sylvie ha deciso di partire comunque. Rilascia una commovente conferenza stampa in aeroporto, poi sale sull'aereo per il viaggio più triste della sua vita. In Canada, la commozione per il coraggio della brava sincronetta è grande. Al suo arrivo a Barcellona sono già centinaia i messaggi di cordoglio e di sostegno che arrivano dal suo paese e dal mondo sportivo. Ma il destino non ha ancora finito di giocare le sue carte contro i sogni di Sylvie, che, trovato il coraggio di gareggiare, compie una performance straordinaria sulle note della musica composta per lei da Vangelis nell'esercizio finale della gara individuale. Ana Maria de Silveira Lobo, giudice brasiliano, inavvertitamente spinge un tasto sbagliato e diverso da quello da lei voluto. Il punteggio che assegna a Frechet è 8.7, mentre quello degli altri giudici segna una media superiore al 9. Si accorge dell'errore, prova freneticamente a rimediare appellandosi a un assistente di giuria, ma è giapponese. Il loro inglese non è sufficiente a capirsi bene. Si perdono attimi preziosi e il tabellone ufficiale gela le speranze di Sylvie. La medaglia d'oro è assegnata alla sincronetta americana Kristen Babb Sprague, seconda fino a quel momento. Sylvie sale sul podio con lo stesso senso di smarrimento con il quale aveva convissuto fino a quel momento e stringe tra le mani una medaglia d'argento che non la può consolare di nulla. Mentre Sylvie Frechet, nel 1992, è alle prese con un avverso destino, nello stesso anno Guy Laliberté inventa e produce uno dei suoi spettacoli. È Saltimbanco, uno show che va in scena ininterrottamente fino al 2006, pressoché inalterato nella forma, e visto in 14 anni da milioni di persone in tutto il mondo. Ne affida la direzione scenica a Franco Dragone, regista teatrale di origini italiane, che tra il 1985 e il 1998 dirige tutti i più prestigiosi spettacoli del Cirque du Soleil. Saltimbanco, termine che deriva dall'espressione italiana saltare in banco, esplora l'esperienza urbana nelle sue innumerevoli forme. Gli abitanti della città, le loro idiosincrasie, le loro somiglianze, l'attività febbrile e incessante delle strade e l'altezza vertiginosa dei grattacieli. Tra tumulto e quiete, prudezza e poesia, lo spettacolo porta gli spettatori in un viaggio allegorico e acrobatico nel cuore della loro città. Per me Saltimbanco è un messaggio di pace. Nel 1990 l'immigrazione era un problema, la mescolanza delle culture nelle città aveva situazioni a volte complesse. Saltimbanco riflette quella mescolanza con tutti i suoi personaggi e i colori. È la sfida che abbiamo con il mondo di oggi, vivere nel rispetto reciproco, vivendo e lavorando insieme, nonostante le nostre differenze. Guy ormai ha smesso i panni dell'artista di strada, non porta più capelli lunghi. Una calvizie incipiente lo costringerà presto a rasarli completamente. Ingrassa un poco e soprattutto inizia ad accumulare una fortuna. Si è trasformato ormai più in un manager che in un artista, un uomo d'affari che gira il mondo per piazzare e vendere al meglio il suo fantastico show. Ma la sua testa non smette mai di pensare al futuro. Sa che deve continuamente proporre nuove cose per far sì che la sua idea di circo spettacolo non si cristallizzi nel conformismo circense di vecchia maniera. È a caccia di nuove idee e sensazioni e di persone che lo aiutino a trasferirle nella realtà del cirque. Sylvie Frechette, la campionessa canadese di nuoto sincronizzato, ha ritrovato parte della sua serenità. Grazie all'intervento e alle pressioni del Comitato Olimpico del Canada, l'errore del giudice brasiliano è riconosciuto e nel 1993, in una commovente cerimonia a Montreal di fronte a migliaia di concittadini, la medaglia d'oro ritorna al collo della legittima proprietaria. Tra i molti a seguire gli eventi della coraggiosa atleta c'è un suo connazionale, Guy Laliberté, che ha ben sviluppato il fiuto per le persone che sanno trasformare la gestualità del corpo in un coordinato e armonico flusso di emozioni. Frechette è tra queste, e il suo mondo, l'acqua, è qualcosa che ancora manca all'interno del Circo del Sole. Ancora non sa come trasferirlo, tradurlo a vantaggio del suo show. Dovrà aspettare ancora qualche tempo. Sylvie, intanto, è chiamata a capitanare la squadra canadese anche per le Olimpiadi di Atlanta del 1996. Da quell'esperienza tornerà con una medaglia d'argento e un posto nella Hall of Fame degli atleti del suo sport. I tempi di un incontro tra Guy e Sylvie sono finalmente arrivati. A destini incrociati, Guy Laliberté, miliardario canadese fondatore del Cirque du Soleil, sta per incontrare Sylvie Frechette, la donna che progetterà per lui uno degli spettacoli più belli e famosi al mondo. Si tratta di Oh, acqua! Una sfida da 100 milioni di dollari e 400.000 ore di lavoro in pre-produzione. Ma niente spaventa chi come loro ha già più volte domato il proprio destino. Lanciato saltimbanco in giro per il mondo, Guy tra il 1993 e il 1996 produce altri tre spettacoli ispirati ai suoi principi. Mister, rivolto al mistero delle origini della vita nell'universo e alla fusione di miti e culture diverse. Allegria, dalle atmosfere gotiche, con luci basse e senso di oppressione in attesa del grido liberatorio di gioia. Infine, Quidam, che combina acrobazie da lasciare senza fiato, fantastici giochi di luce, costumi e musica d'incanto, tutto immerso in una surreale dimensione onirica. Aria, terra, fuoco, vaudeville, goticismi, commedia dell'arte, circo d'avanguardia. Guy ha regalato al mondo una nuova forma di spettacolo, ma sente che manca qualcosa. Un elemento così presente nella nostra vita da darlo quasi per scontato. L'elemento dove la vita nasce, del quale in massima parte siamo composti. L'acqua. Guy e Sylvie non si conoscono di persona, ma entrambi sanno l'uno dell'altra. Montreal, il Canada e buona parte del mondo nel corso degli anni 90 ha applaudito le loro gesta che, pensandoci bene, non sono poi così diverse. Lo pensa anche Guy, che vede nella campionessa olimpica la persona giusta per affidarle il suo prossimo fantastico progetto. Uno spettacolo del Cirque costruito intorno all'acqua che fonda gesto atletico, artistico e musicale in un'unica grande rappresentazione. Il modello per Guy è Esther Williams, con i suoi fantastici musical che prevedevano spettacolari coreografie di nuoto e tuffi. L'attrice, nel 1998, ha quasi 80 anni ed è troppo anziana anche solo per pensare a una consulenza. E la soluzione è proprio Sylvie Frechette, che dopo il ritiro dallo sport lavora alla televisione canadese e vive ancora a Montreal. Trovarsi e innamorarsi professionalmente è semplice, come bere un bicchiere d'acqua. Lei la sognatrice, lei che nell'acqua vede molto di più dell'elemento primordiale, vede una promessa di felicità per il genere umano intero. Sono una sognatrice e mi sono sempre spinta fino ai miei limiti. Fin da quando ho mosso i primi passi, sapevo che c'era sempre spazio per migliorare. So di essere una personalità pubblica. Devo parlare con i media, ma l'essere umano è troppo importante e io mi sentirò finalmente soddisfatta solo il giorno in cui vi sarà l'accesso universale al cibo, ai servizi pubblici e all'acqua potabile. O la lettera e O l'acqua in francese hanno una pronuncia pressoché identica e la grafia della O è quella di una circonferenza, così come lo è la pista di un circo. Le suggestioni sono già tutte insite nella premessa. Sylvie è completamente affascinata dal progetto che per entrambi è una svolta. Per lei, un modo per tornare al suo elemento di sempre. Per lui, di toccare una dimensione da tempo inseguita. Il nome Cirque du Soleil è infatti venuto a Guy mentre seduto su una spiaggia delle Hawaii, ai tempi in cui non era ancora nessuno, osserva un enorme tramonto di sciogliersi nel mare all'orizzonte. Era tempo di rendere omaggio al momento che gli aveva cambiato la vita. E il Bellagio Hotel and Casino di Las Vegas, il luogo scelto per rappresentare lo show tanto atteso, all'interno del quale viene allestito un teatro da 1.800 posti, costruito intorno a un enorme contenitore riempito da 1.500.000 di galloni d'acqua. I costumi di scena resistenti ad acqua e cloro sfiorano i $10.000 a pezzo, e vengono inventati nuovi procedimenti chimici per far sì che il trucco degli artisti non si sciolga al primo tuffo. Guy ci mette tutta la sua energia organizzativa e la sua forza economica. Sylvie, dalla sua, ha un compito davvero impegnativo: inventare le coreografie e soprattutto selezionare i performers. Ma la vita l'ha già messa alla prova e lei mette tutta se stessa nella nuova avventura. Sylvie diviene designer, coreografa, coach, motivatrice. Deve trasformare eccellenti atleti in sensibili artisti, o meglio, creare la fusione del meglio dei due mondi. E questo per 10 spettacoli alla settimana, per 49 settimane all'anno, per quello che viene presto definito come uno degli show più importanti al mondo. Lei stessa prende parte allo show per i primi tempi, segna la via, è l'attrazione nell'attrazione. Nell'ottobre del 1998, finalmente, viene inaugurato. Sylvie e Guy hanno scritturato 85 tra acrobati, tuffatori e sincronisti, curato maniacalmente ogni aspetto, tecnico e artistico. Le luci, le splendide musiche, le scenografie da sogno che richiamano volutamente suggestioni alla Salvador Dalí e i dipinti di Vladimir Kush. Sono passati 12 anni dalla prima di O a Las Vegas e nulla è cambiato. Sylvie ne è ancora la maggiore coordinatrice e oggi è una cara amica dell'uomo che ha reso possibile un sogno: trasformare la sua disciplina sportiva in una nuova forma di intrattenimento. E lui, nel frattempo, non è rimasto mani in mano. La Nuova, Dralion, Warekai, Ka, Corteo e Delirium sono solo alcune delle successive produzioni dal 2000 in poi dell'ex trampoliere squattrinato che nel frattempo Forbes ha inserito tra i 500 uomini più ricchi del mondo e Time Magazine tra le 100 persone più influenti del pianeta e che è stato infine insignito dell'Ordre National du Québec, il più alto riconoscimento conferito dal governo del suo paese d'origine. Sono stato fortunato per tutto quello che ho avuto, i soldi, il successo, ma ci ho sempre creduto fin dall'inizio. Il mio sogno resta immutato. Ho ancora voglia di viaggiare, di conoscere, di divertire gli altri e sicuramente ho ancora voglia di divertirmi io. Ma i soldi e il successo possono anche portare problemi e nemici, naturalmente. Specialmente quando decide di dedicarsi in maniera professionistica al Texas Hold'em, il gioco di poker ormai famoso e giocato a livello planetario. Gioca molto, perde molto e si attira qualche antipatia. Nel 2009 è pubblicata una biografia non autorizzata scritta da Ian Halperin, grande esperto di gossip canadese. Il libro si intitola Guy la Liberté, la favolosa storia del creatore del Cirque du Soleil. E parte dalle origini del mito, un ragazzo di Quebec City che in 25 anni si trasforma in uno degli uomini più ricchi del pianeta. Il libro però non si limita a raccontare i suoi successi imprenditoriali, ma entra nel merito della sua sfera privata, mostrando al lettore un uomo eccessivo, schiavo del sesso e delle droghe e sempre alla ricerca dei piaceri più sfrenati. Tutto da verificare, è chiaro, ma Guy è infastidito. Passa alle vie legali, riesce a far ritirare il libro, denuncia l'autore. Poi decide che alla fine non gli importa. Lui è l'uomo che da sempre regala felicità alla gente e ha in serbo ancora un grande colpo di scena. Investe infatti 35 milioni di dollari per il biglietto aereo più caro della storia, un posto sul volo spaziale della Soyuz verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il 30 settembre 2009, al cosmodromo di Baikonur in Russia, un momento prima di calare il casco sulla testa calva, si mette un grosso naso rosso da clown per la gioia dei fotografi di tutto il mondo. Si definisce il primo pagliaccio spaziale della storia. Il suo circo è ormai sempre più vicino al sole. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.